Poi sappiamo che questo non è soltanto appunto l'ipertensione arteriosa, ma anche quello che poi comporta in termini di rischio vascolare. Quindi dobbiamo preoccuparci soprattutto appunto quando il russamento è abituale di tutte le notti e in ogni posizione. Abbiamo in linea con noi Sergio dalla provincia di Monza, Laura da Padova e Paola da Catania. Invito i miei ascoltatori a così fare un po' outing, raccontarci un po' anche come russano, cioè, ammettiamolo, tante volte ci svegliamo proprio per il nostro ronfo, non solo per quello del nostro partner. Sergio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, spiego, un po' lunga la storia. Allora, io ho iniziato a russare da quando ho cominciato a fare il camionista, perché dormendo con, diciamo, col Babaston seccava l'ambiente e la mattina mi trovavo col palato attaccato. E ho cominciato a russare lì. Adesso dice mia moglie che russo tantissimo, che tante volte non riesce neanche a dormire. Ho operato setto nasale che ce l'avevo deviato, però continuo a russare. Sono dimagrito 7 kg, ma il collo ce l'ho. Il collo però non dimagrisce, professor Ferri. Ce l'ho grandissimo, ce l'ho. Però, come ho detto in un'altra trasmissione, ho fatto un'invenzione di per non russare più. Allora Sergio, ce la racconti così poi la brevettiamo. Facciamo una piccola socia col professor Ferini-Strambi. Dovrei brevettarlo e non riesco a brevettarlo. Ma che invenzione ha fatto? È un'invenzione che consiste di prendere questa cosa. Io l'ho utilizzata, la utilizzo su di me, l'ho inventata prima su di me. Mia moglie mi prendeva in giro perché mi ha dovuta far lei, essendo sarta, ho detto ma la fai. Ma che cos'è? E l'ho data anche ad alcuni amici che russano e funziona. Ma allora, ce la vuole raccontare Sergio questa cosa che funziona o no? Non può. Posso. Allora, amici, noi abbiamo il prossimo inventore di una, professor Ferini-Strambi, di una non si sa che cosa, che forse risolve il problema per i russatori. Sono felicissimo, Nicoletta, di questa cosa, perché noi siamo alla continua ricerca di robe nuove. La cosa però fondamentale è questa: non basiamoci soltanto su quello che racconta la moglie, cioè nel senso che fortunatamente oggi abbiamo degli strumenti per misurare sia le apnee chiaramente, ma anche quantificare il russamento. Abbiamo questa possibilità. Se ci sono queste invenzioni, io sono felicissimo, e anzi se il signore vuole anche, diciamo così, contattarci per sperimentarle e vedere, fantastico, ma qua si creano dei business. Laura da Padova, buongiorno, come russa, Laura? Buongiorno, no, io non russo, però non sono ci credo. Di un russatore. E quindi vede le sue. Che molto spesso dormo con i tappi. E che verso fa suo marito, Laura? Ha un russare molto, molto forte, molto penetrante, però non è tutte le notti. Noi ci accorgiamo che lo fa molto, quasi sempre quando è molto stanco, e volevo appunto capire quanto incide la stanchezza sul russare. Professore, la stanchezza fa russare, e mentre si russa si cambia anche faccia, perché? Ma sì, allora è vero che quando si è più stanchi si tende a russare di più, perché spesso aumenta la quota di sonno profondo, che è quel sonno che appunto facilita diciamo così il russamento, perché ci si rilassa ancora di più, perché l'organismo deve recuperare proprio le forze, quindi è in una sorta appunto di condizione di stand by sul piano energetico, e quindi aumenta molto il russamento. La signora però diceva che il marito fortunatamente non russa tutte le notti, ecco, quindi magari in queste situazioni ci sono delle piccole strategie che possono aiutarci. Non so, per esempio, citiamo ad esempio soltanto il discorso, ad esempio, del cuscino alto, no? Sì. Ecco, quindi un cuscino molto alto che diciamo così ostacola un pochino l'eccessivo rilassamento della muscolatura e lo scivolamento della lingua indietro, ad esempio, può essere sufficiente. Come pure un altro rimedio a volte è il discorso della terapia posizionale, no? Cos'è la terapia posizionale? È una terapia che praticamente si attua creando una tasca dietro il proprio pigiama, dove si può inserire una pallina da tennis, e questa pallina, in alcuni casi molto ostinati, noi addirittura facciamo una tasca che possa contenere due palline da tennis, e in questa maniera il soggetto, tutte le volte che si mette in posizione supina, deve cambiare posizione perché non riesce a restare in quella posizione. Quindi ecco, questi sono stratagemmi che, voglio dire, sono molto semplici, però spesso aiutano a risolvere il problema, soprattutto quando il problema è un problema, diciamo, non di tutte le notti. Ho qua davanti a me Enrico Pagliarini,